Una favola di Esopo. Paroledistorie.net. La zanzara e il leone. Una zanzara si avvicinò una volta al leone e gli disse: «Non ho paura di te, perché non sei più potente di me. Dimmi un po', in cosa consiste la tua potenza? Nel fatto che graffi con le unghie e mordi con i denti? Ma questo lo sa fare ogni donna che litiga col marito. Io sono di gran lunga più forte di te, e se vuoi, apriamo le ostilità». E suonata la tromba, la zanzara lo attaccò, mordendogli le narici e le parti del muso dove non c'erano peli. E il leone, con gli artigli, graffiava se stesso, finché dovette cedere. La zanzara intonò con la tromba un canto di vittoria per aver vinto il leone e volò via. Andò così a finire nella tela di un ragno e mentre veniva divorata lamentava il fatto che, dopo aver combattuto con i grandi, periva per opera di un animaletto da nulla, come il ragno. Avete ascoltato Una favola di Esopo. Paroledistorie.net.